Mercato Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ben approdati, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, qui a Effetto Notte per avere un riepilogo della giornata, come sempre, tutte le sere dalle 21 alle 22, soprattutto nella prima parte, e poi approfondimenti con vari ospiti sui tanti temi di oggi, per esempio per le questioni economiche, questa seconda rata sull'IMU, si pagherà, non si pagherà, c'è la copertura, viene rimandata oppure no? Cioè, vediamo se riusciamo un po' a fare chiarezza, anche se è difficile, su questi argomenti e non solo per quanto riguarda la politica italiana. Politica italiana che ancora è abbastanza impigliata, soprattutto diciamo in particolare il PD nella vicenda Cancellieri, e poi il vertice di Varsavia che sul clima, che sembra sia stato una specie di fallimento, tanto per cambiare a proposito di vertici sul clima, e molto altro. Però vi ricordo, prima di partire con i titoli, che c'è anche la pagina Facebook, come sempre a vostra disposizione, Effetto Notte trattino Roberta Giordano, se volete commentare quello che viene detto man mano, quelli che sono i temi centrali, quello che dicono anche gli ospiti. Poi, per coloro che invece preferiscono gli sms, c'è sempre la pagina degli sms, che è, ecco se riesco a trovarla, 349-238-6666. Adesso possiamo partire con i titoli. Per l'economia, vi dicevo, il governo vara un mini piano di dismissioni, punta ad incassare una dozzina di miliardi. Forse incertezza, vi dicevo, sul rinvio dell'abolizione della seconda rata dell'IMU, ma Letta assicura l'impegno con le famiglie sarà mantenuto. Ancora naturalmente la Sardegna è in primissimo piano, l'isola è ancora sotto la pioggia, 9 comuni al momento restano senza acqua, ma scende il numero degli sfollati. Il vertice di Varsavia, clamorosa rottura alla conferenza sul clima in corso in Polonia, e per l'Europa il futuro si annuncia segnato dai cambiamenti climatici. Il processo Ruby, i giudici nelle motivazioni scrivono: Berlusconi, il regista del Bunga Bunga, sapeva che era minorenne. Scarcerato in Russia l'attivista di Greenpeace Christian D'Alessandro, lo rifarei, dice. E poi Gran Bretagna, schiava per 30 anni scoperta dalla polizia insieme ad altre due donne, dalla polizia britannica, l'incredibile storia arriva dalla periferia di Londra. E partiamo quindi dal Consiglio dei Ministri di oggi, dove si è parlato in particolare di IMU, ma come vi dicevo, non solo. La seconda rata dell'IMU sulla prima casa non sarà pagata, ma slitta il relativo decreto. Va martedì prossimo anche il provvedimento per la rivalutazione delle quote di Banca Italia. I due decreti devono viaggiare parallelamente, spiega il presidente del Consiglio Letta. Il rinvio è esclusivamente dovuto al fatto formale, cioè al fatto che i due provvedimenti devono andare in parallelo. La seconda rata IMU non si pagherà sui fabbricati rurali, resta da sciogliere il nodo dei terreni, slitta dal 30 novembre al 10 dicembre la tempistica per gli acconti fiscali. Palazzo Chigi accelera poi sulle privatizzazioni, obiettivo del governo è incidere sul debito pubblico e liberare risorse per gli investimenti. È un'operazione che nei nostri calcoli dovrebbe far entrare tra i 10 e i 12 miliardi di euro. In particolare il piano coinvolge 8 società e prevede la cessione del 3% di Eni, del 60% di SACE e grandi stazioni ed ancora di quote non di controllo, tra l'altro di ENAV, STM e Fincantieri. Altro capitolo, le risorse che arriveranno dalla spending review andranno a ridurre le tasse sul lavoro, ha detto ancora Letta. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, ha annunciato che entro domani verrà inviata una lettera nella quale gli imprenditori, naturalmente lettera al governo, indicheranno gli elementi fondamentali che dovrebbero essere affrontati nella legge di stabilità. C'è molta inquietudine e nervosismo nella nostra base, ha detto Squinzi. L'intervento sul cuneo del lavoro, cuneo fiscale del lavoro, è per noi assolutamente prioritario. Era prioritario anche il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Qualche cosa si sta muovendo, però in maniera ancora insufficiente, con situazioni che mi vengono segnalate assolutamente incredibili, come il fatto che tante amministrazioni pubbliche non registrano effettivamente i debiti che hanno verso i loro creditori. Altro tema che riguarda il governo è la riforma del trasporto pubblico locale. Il governo dovrebbe presentare presto le linee di questa riforma, di un settore che dà lavoro a 127.000 lavoratori con 1.150 aziende, di cui circa il 40% praticamente fallite. Nella legge di stabilità il Fondo Nazionale per il settore è stato portato a 4,9 miliardi di euro e diventa strutturale. Nel frattempo a Genova prosegue l'assedio pacifico alla sede del comune da parte di alcune centinaia di lavoratori della MT che protestano contro la possibile privatizzazione delle aziende controllate dal comune. E dopo aver interrotto le trattative oggi col sindaco di Genova Doria, domani per il quarto giorno consecutivo nel capoluogo ligure ci sarà sciopero del trasporto pubblico, l'ha annunciato Andrea Gatto, sindacalista della Faesa Cisal. E poi l'alluvione in Sardegna, che è naturalmente con gli strascichi inevitabili di questi giorni, soltanto ieri ci sono stati funerali, tra bilanci e polemiche. Nonostante l'allerta meteo sia moderata ad Olbia, ora piove ed è sotto l'acqua che gli olbiesi continuano ad aiutarsi l'un l'altro in una gara di solidarietà senza fine. La testimonianza di un volontario di 19 anni. Ci stiamo organizzando a andare casa per casa a chiedere di cosa hanno bisogno e poi ritornare dove c'è il deposito della raccolta di indumenti e prodotti alimentari e li riconsegniamo. E ci stiamo organizzando così tra di noi con molti amici, ci stiamo dando una mossa per aiutare la città. La Protezione Civile ha chiesto di non inviare più aiuti perché i centri di raccoglimento sono pieni. In via Canova, uno dei tanti depositi, decine di volontari sono al lavoro fra pacchi di pasta, indumenti, materassi. È questo che chiede la popolazione colpita. Un'emergenza così non l'avevo mai vissuta, quindi al primo impatto il cuore era abbastanza stretto, poi adesso non è che un'abitudine, però bisogna andarsi da fare, quindi non si guarda in faccia neanche, non si riesce neanche a fare due chiacchiere perché c'è molto da fare. Molti sono tornati a casa, sono circa 500 gli sfollati. Si cerca ancora un allevatore disperso nel nuorese, due le inchieste aperte dalla magistratura per omicidio colposo in seguito al crollo di diverse infrastrutture. Domani, come deciso dal governo, sarà lutto nazionale. Stefano Totoro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Olbia. La Corte Costituzionale tedesca ha rinviato al 2014 il giudizio sul programma di acquisto titoli della Banca Centrale Europea. Intanto la situazione dell'Eurozona è stata al centro della giornata economica a Berlino. La BCE non favorisce nessuno. Il nostro surplus commerciale è equilibrato. Si consuma così l'ennesimo botta e risposta sull'asse Berlino-Francoforte in un'Europa che vede la Germania giocare sempre più in difesa di fronte al crescente fronte antitedesco. Parlano a pochi minuti di distanza Mario Draghi e Angela Merkel intervenendo al forum economico della Süddeutsche Zeitung. La cancelliera si dice sorpresa della discussione relativa all'eccessivo rigore della Germania. Abbiamo un debito all'80% a fronte di un obiettivo del 60%, afferma, e contrattacca dopo l'apertura di un'indagine da parte della Commissione Europea sul surplus commerciale tedesco. Il nostro squilibrio nell'Eurozona è molto piccolo, inferiore al 3%, dice. La Merkel annuncia infine la concessione fatta all'SPD sul salario minimo. Dovremo assumere decisioni che non considero giuste, tra cui quella di un salario minimo generalizzato. Poco dopo è Mario Draghi a dover contrattaccare alle critiche che arrivano più o meno direttamente dalla Sancta Sanctorum dell'economia tedesca, la Bundesbank. È profondamente scorretto accusare il Consiglio della BCE di agire a vantaggio di uno o più paesi, dice. Il nostro agire si basa su considerazioni economiche e opera nell'interesse di tutti, afferma. Draghi ribadisce di non vedere alcun rischio deflazione nell'Eurozona. Più tardi il falco Jens Weidmann, presidente della BUBA, evita di contrattaccare apertamente. La BCE fornirà liquidità illimitata fino a quando sarà necessario, afferma, e avverte la crisi dell'Eurozona non è ancora superata. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E passiamo al vertice sul clima. Clamorosa rottura c'è stata la conferenza sul clima in corso a Varsavia. Le grandi ONG, le organizzazioni non governative, quali Greenpeace e WWF, hanno annunciato l'abbandono dei lavori perché dicono non stanno portando a nulla di fatto. Lo sentite al microfono di Sergio Nava. Martin Kaiser, capo della delegazione di Greenpeace a Varsavia, accusa: dopo 10 giorni è risultato chiaro che questa conferenza non avrebbe prodotto conclusioni utili a mitigare il cambio climatico, con i risultati catastrofici che abbiamo già visto nelle Filippine e in Africa. Ancora peggio, dice, il Giappone e l'Australia hanno deciso di non rispettare gli impegni già presi, senza contare che il governo polacco ha organizzato l'intero vertice al solo scopo di fare gli interessi dell'industria del carbone, la più inquinante. Per noi è stato davvero troppo e penso che possa essere un po' per tutti davvero troppo. E a proposito di clima, ecco a questo punto cosa dicono gli scienziati europei incaricati dalla Commissione europea. L'Europa ha poco più di 15 anni di tempo per evitare i primi veri segni di un disastro climatico irreversibile che anticiperà quello planetario. Ce lo dice il team di scienziati europei, tra i quali quelli dell'Enea, nei risultati del progetto Impact 2C, finanziato direttamente dalla Commissione UE. Il monito è decisamente inquietante. La Terra raggiungerà la soglia critica dei 2 gradi centigradi di aumento delle temperature medie tra il 2030 e il 2050, a seconda di ciò che riusciremo a fare per rimediare almeno in parte di disastri provocati dall'uomo. Il nemico pubblico numero uno lo conosciamo, l'anidride carbonica dispersa in atmosfera. I primi segnali, spiegano gli scienziati dell'Enea, che arriveranno con periodi di siccità più forti e intensi nella fascia mediterranea in estate, ma anche con un aumento delle precipitazioni in inverno sulla Scandinavia e sulle coste britanniche. Noi in Italia siamo tra i più esposti, con avvisaglie immediate. Va interpretato così il disastro dei giorni scorsi in Sardegna. Federico Rendina, Radio 24, Il Sole 24 Ore. C'è di che stare allegri, insomma. Passiamo ad un altro argomento. Il garante per la privacy ha dato il via libera al redditometro, però con alcuni paletti. Redditometro da rivedere. Il garante della privacy dà il via libera al nuovo strumento di accertamento, ma mette una serie di condizioni per ridurre i rischi sul trattamento dei dati personali dei contribuenti, a partire dalle medie Istat, già oggetto di critiche nei mesi passati da parte di esperti ed addetti ai lavori. I dati monitorati dall'Istituto Nazionale di Statistica per finalità diverse dalla lotta all'evasione non potranno essere utilizzati dall'Agenzia delle Entrate secondo il parere dell'autority presieduta da Antonello Soro. Ma c'è di più. I dati presunti, quindi non legati a nessun elemento certo, non dovranno essere impiegati neanche nel contraddittorio, vale a dire il momento del confronto tra gli uffici e i contribuenti selezionati perché ritenuti a maggior rischio di evasione. Attenzione anche ai dati già presenti nei database dell'anagrafe tributaria. L'Agenzia delle Entrate è chiamata a prestare particolare attenzione alla qualità e all'esattezza delle informazioni disponibili per prevenire e correggere le evidenti anomalie riscontrate nella banca dati o i disallineamenti tra famiglia fiscale e anagrafica. In pratica il garante le richiama il fisco a una maggiore trasparenza, oltre che a una maggiore tutela dei contribuenti, informandoli che i dati personali saranno utilizzati per il redditometro e mettendo nero su bianco se gli ulteriori approfondimenti richiesti saranno obbligatori o facoltativi, senza dimenticare di dettagliare le conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere. Giovanni Parente, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso una notizia terribile che arriva dalla Gran Bretagna, una storia incredibile. Sono tre le donne liberate dalla polizia intervenuta in un'abitazione nel sud di Londra in seguito alla denuncia di una donna che ha dichiarato di essere stata tenuta segregata in casa, praticamente in stato di schiavitù per anni. Si tratta di una donna di 69 anni, proveniente dalla Malesia, una 57enne irlandese e una britannica di 30 anni. La trentenne è stata, pensate, segregata in casa per tutta la vita. Torniamo in Italia col processo Ruby. Sono state depositate a Milano le motivazioni della sentenza con cui a giugno, per il caso Ruby appunto, il Tribunale di Milano ha condannato Silvio Berlusconi a 7 anni per prostituzione minorile e concussione. Regista del Bunga Bunga è consapevole della minore età di Ruby, con cui ebbe almeno 2 rapporti sessuali, e questo per la Corte è provato. Parlano di capacità a delinquere di Silvio Berlusconi i giudici nelle motivazioni della sentenza con cui l'hanno condannato a 7 anni, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. 326 pagine che ricostruiscono le feste di Arcore e il collaudato sistema prostitutivo, scrivono, con cui pure l'allora 17enne marocchina era inserita stabilmente. Serate ricompensate con gioielli e soldi, soldi come quelli che le ragazze, divenute poi testimoni del processo, hanno continuato a ricevere dall'imputato, soldi come 5 milioni che Ruby confidava di avere dal cavaliere e per questo, mostrando di essere scaltra, nota la Corte, non dice al PM che Berlusconi conosceva la sua età. Soldi in cambio di sesso, dunque, proprio per non far venire fuori tutto quanto avveniva nelle notti di Arcore, l'allora premier, abusando della sua qualità, intervenne pesantemente, secondo i giudici, sul capo di gabinetto della questura la notte del fermo di Ruby per chiedere il suo affido a Nicole Minetti. Se davvero non fosse stato al corrente della minore età, non avrebbe avuto motivo, si legge, di intervenire. Sentenza surreale, commentano gli avvocati. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E infine oggi ci sono stati gli stati generali della cultura organizzati dal Sole 24 Ore a Milano, però di questo parleremo dopo. Dopo parliamo di varie cose. Vedo un ascoltatore o ascoltatrice che i messaggi al 349-238-6666 vuole informare sulla situazione meteo a Novara, va benissimo. In Piemonte dice tuoni, fulmini e grandine verso le 19 alle porte di dicembre, se nulla troppo violento, insomma, che è abbastanza normale in questa stagione. Vi ricordo che adesso aggiorniamo chi sta viaggiando e poi parliamo di dell'IMU e ci sarà di nuovo Pippo Civati che oggi si è fatto insultare su Twitter. Sentiremo un po' che cosa ha da dire anche sul caso Cancellieri, sul PD, su questo braccio di ferro con Letta, Renzi, insomma tutta questa confusione all'interno del Partito Democratico. Ci sono, abbiamo detto, i messaggi, ma anche la pagina Facebook, come sempre, per riconoscerla, effetto notte trattino Roberta Giordana. Tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Breve il tempo in cui ci siamo lasciati, Roberta Giordano di nuovo con voi. Prima di passare ad approfondire i vari argomenti con i diversi ospiti, vi ricordo i fatti principali di oggi. Con l'economia il governo vara un mini piano di dismissioni, punta ad incassare una dozzina di miliardi. Forse incertezza sul rinvio dell'abolizione della seconda rata dell'IMU, adesso cerchiamo però di capire come stanno le cose. Sardegna, l'isola è ancora sotto la pioggia, 9 comuni al momento restano senza acqua, ma scende almeno il numero degli sfollati. Il vertice di Varsavia, clamorosa rottura, la conferenza sul clima in corso in Polonia, e per l'Europa il futuro si annuncia segnato dai cambiamenti climatici. Il processo Ruby, i giudici nelle motivazioni scrivono: Berlusconi, il regista del Bunga Bunga, sapeva che lei era minorenne. Scarcerato in Russia l'attivista di Greenpeace, Christian D'Alessandro, lo rifarei, dice. E poi della Gran Bretagna, schiava per 30 anni, scoperta dalla polizia britannica, l'incredibile storia arriva dalla periferia di Londra. Cominciamo allora da questa vicenda dell'IMU che, scusate, mi sembra che possa veramente sembrare un po' una barzelletta. Chiedo a Dino Pesole del Sole 24 Ore, ciao Dino, se così sembra anche a te, nel senso, oggi i giornali online, quindi più freschi, più aggiornati, titolavano rimandata l'abolizione della seconda rata, poi Letta verso sera ha detto no, è solo una questione tecnica, ma garantito, le famiglie non la pagheranno. Fassina, vice ministro dell'economia, che aveva detto che forse c'erano bisogno ancora di un po' di giorni per capire come stanno le cose. Dino, secondo te? Sì, Roberta, il problema è questa telenovela dell'IMU che in realtà poi ci trasciniamo dall'inizio del governo Letta. Già. Perché non dimentichiamo che proprio fu uno dei punti che l'allora PDL pose come pregiudiziale, poi ci fu alla fine di agosto il rinvio della rata, quella di settembre, e poi si disse e rinvieremo anche quella di dicembre. Adesso giunti al momento clou, quello in cui bisogna individuare le coperture, perché ricordo che qui stiamo parlando di 2 o 2,4 miliardi che bisogna recuperare praticamente subito, perché esattamente il gettito che verrebbe e che verrà, perché la decisione politica è già stata assunta per effetto dell'abolizione della seconda rata dell'IMU, bisogna trovarli. Allora, il punto di oggi è sostanzialmente questo: il governo era convinto, infatti ha convocato il Consiglio dei Ministri, di riuscire a trovare coperture per l'intera partita. In realtà poi si è creato un problema che non è tanto economico quanto politico, perché si trattava di decidere se estendere l'abolizione della seconda rata dell'IMU, oltre che alla prima casa di abitazione, anche ai beni agricoli, ai macchinari, ai beni strumentali dell'agricoltura. Non è una cosa da poco, perché costa altri 400 milioni, ma soprattutto c'è il ministro Di Girolamo che ne ha fatto un caso politico e dunque c'è stata la necessità di rinviare, devo dire anche forse giustamente, perché se mancano le risorse. Poi il primo ministro l'ha spiegato esattamente così, ha detto che in realtà la questione riguarda un aspetto puramente formale, perché si tratta di in qualche modo combinare questo intervento sull'IMU con le altre misure che riguardano, e qui siamo alla seconda parte. Le dismissioni per 10-12 miliardi, quelle? Le dismissioni sono la novità di oggi, che però con la faccenda dell'IMU non c'entra. No, il problema è che per rinviare l'IMU il governo ha deciso di aumentare gli acconti fiscali di fine anno per banche e assicurazioni. Allora, il punto sostanzialmente è questo: poiché contemporaneamente, la questione è un po' complessa, vediamo se riusciamo a spiegarla, poiché contemporaneamente il governo ha deciso di recuperare 1,2 miliardi dalla cosiddetta rivalutazione delle quote di Banca Italia, allora si è detto i due provvedimenti devono camminare insieme. Poiché questo secondo ancora non è perfezionato, perché manca l'ok della Banca Centrale Europea, rinviamo tutto a martedì. E questa è la sostanza della giornata di oggi. Sulle privatizzazioni è la novità di oggi, perché il governo, non a caso, il giorno prima che Saccomanni vada alla importante riunione di domani a Bruxelles dell'Eurogruppo, quando ci sarà una valutazione politica sulla nostra legge di stabilità, annuncia esattamente quello che poi Bruxelles ha chiesto, cioè fate qualcosa per ridurre il debito. E dunque esce dal cappello questo pacchetto di 10-12 miliardi di dimensioni che dovrebbe essere realizzato nel 2014. Vedremo se ci si riuscirà, perché la questione è tutt'altro che semplice. Certo, estremamente complessa. Intanto grazie allora Dino Pesole, ti ringrazio e buona serata. Grazie a voi Romo. Ciao Dino. Passiamo invece alla politica e alle vicende, ai psicodrammi degli ultimi giorni che hanno riguardato, diciamo, pure un partito in particolare che è il PD. E ho il piacere di ritrovare, è stato il primo dei quattro candidati alla segreteria del partito che è stato qui Effetto Notte, l'onorevole Pippo Civati. Buonasera Civati. Buonasera Civati. Che pensate, a parte quello che è successo appunto sul caso Cancellieri, di cui adesso inevitabilmente parleremo, è stato forse oggi, nella giornata di oggi, nell'ultima ora, il più insultato di Twitter? È possibile, onorevole Civati? Sì, no, beh, me la sono cercata perché volevo che i nostri lettori incavolati per quello che era successo ieri potessero trovare un interlocutore e lo trovassero in uno dei concorrenti di queste primarie, ma soprattutto in uno di quelli che avevano posto il problema sulla Cancellieri invano. Però diciamo, Civati, che ieri c'era Ernesto Carbone, qui Effetto Notte, del PD renziano DOC, al quale ho detto: ma non vi sembra come PD di aver fatto una figuretta, anzi una figuraccia? Lei invece, Civati, voglio chiedere, non le sembra di aver deluso molto? Perché lei era stato, a parte Renzi, forse il primo che aveva detto quando era successo il caso Cancellieri. Sono stato io. Era stato pure il primo, quindi ha deluso doppiamente e triplamente anche. Poi lei presentava la mozione di sfiducia, al di là di quella del Movimento 5 Stelle, all'Assemblea del PD, due giorni fa, mi scusi. No, però posso comunicarle questa sensazione? Certo, sì. Che io ho deluso, ma a mia volta questo partito ha deluso me, nel senso che io ho portato la mozione all'attenzione del gruppo ed è passata invece la linea di Letta e di Gianni Cuperlo, una linea molto dura tra l'altro contro di me e contro Renzi, considerati due sfascisti, insomma il solito richiamo dell'apparato che ci ha condotto a questa figuraccia incredibile. Tenga conto che io però non potevo presentare la mozione di sfiducia da solo, sia per un fatto tecnico che perché ci vogliono 63 firme, sia per un fatto politico perché ovviamente a me interessava che fosse il PD a prendere una posizione sul caso Cancellieri, per questo che avevo sollecitato una reazione da parte dei nostri che non c'è stata. E questo è comprensibile che la volesse da parte del PD, ma dal momento che lei è uno che sembra coraggioso, con insomma delle opinioni dissenzienti, non poteva portarlo avanti, almeno lei votare, perché tutti vi siete conformati? Ma io non mi sono conformato, sono intervenuto in aula ribadendo il disagio. Però ha detto non capisco ma mi adeguo, ha detto non capisco ma mi adeguo praticamente. No, io no, questo l'hanno scritto i giornali sulla base di una nota fatta uscire dal partito, ovviamente, non ho mai usato questa espressione. No, è la sintesi questa. No, è uscita proprio un'agenzia che diceva così e che ha creato un sacco di problemi, però io in realtà ho detto di non essere d'accordo, l'ho ripetuto in aula e ho spiegato però che non potevo votare da esponente di un partito che sostiene il governo una mozione dell'opposizione, mi sembrava veramente un gesto a pochi giorni dalle primarie, come dire, negativo rispetto a tutto il Partito Democratico che avevo sollecitato. Quindi banalmente la sintesi migliore è che ho perso e forse ha perso anche il PD, quando se ne renderà conto sarà un bel giorno. Invece qualcuno, vedevo qualche analista politico oggi qua e là, adesso non ricordo esattamente dove, che in questo modo lei e Renzi avete lasciato che ci mettesse, visto che ce l'ha voluta mettere la faccia Letta, il PD in generale eccetera, ma voi potreste sfruttare questa rendita di coloro che si sono posti invece in opposizione, anche se poi dopo hanno firmato, cioè hanno votato compatti con il partito. È vero, a me sembra strano che possiate vivere di una rendita che invece su un fatto che deluso, così è un'opinione personale questa Civati. Ma guarda che però noi non viviamo di rendita, non era strumentale, io pensavo fosse giusto fare così, come diceva lei mi sarebbe convenuto fare un gesto folle probabilmente, però per come sono fatto un conto a esprimere un dissenso politico verso le larghe intese, quando si discute in un gruppo si perde, si cerca anche una battaglia molto forte contro la volontà, insomma l'indicazione del Presidente del Consiglio, del segretario, del capogruppo, del 90% dei parlamentari che hanno accolto le mie proposte con molta freddezza, capisce che insomma non è che mi sono comportato in modo strumentale, insomma, tutt'altro. Le ho prese di santa ragione, sia dentro che fuori. Adesso vediamo come le ha prese, come le ha prese su Twitter. Ne ho raccolti qualcuno, non tanti perché sono centinaia, chiaramente, per insultarla, ma non mi sembra, per fortuna, che ci siano volgarità tra quelli. No, per esempio, no. Gliene leggo qualcuno, che lei magari sì. Sta tutto il giorno nelle leggi. Però Mauro Vannetti, cito anche i cognomi visto che qualcuno si firma in modo trasparente. Il sottoscritto dice lo insulta dicendogli che in fondo anche questa iniziativa è vittimistica, assolutoria e snob. Aspetti a rispondere. Emanuele canta, non lo insulto perché gli faccio un favore, lasciamolo nell'anonimato che merita. Michele, incredibile, Cuperlo, Bersani, D'Alema hanno creato questo PD schifoso e attaccato altre poltrone e voi insultate il povero Civati, quindi questo lo difende. Francesco Di Mino, se non te ne vai dal PD dopo il 9-12, cioè dopo quindi le primarie evidentemente, perdi la credibilità che avevi, dice, il PD non lo cambi, ormai è DC. Danilo Mango. Però posso un attimo. Gliene leggo ancora 3 o 4. Quando c'era Bersani al posto tuo, potevamo tenere le chiavi attaccate alla porta, anche se lei non è segretario ancora. Per cui Valerio Bianco, questo insulto che le esprime è piddino, punto esclamativo. Ora come ora mi sembra proprio un insulto e prima vi votavo. Ancora 2. Orio che scrive: lei Civati è simpatico e alle palle, punto, al piede. Quindi poi chi mi dirà se è vero questo di avere palle al piede. Riccardo Caccia, un insulto che non so lei se condividerà, ma probabilmente per lui, per questo Riccardo, è il peggio del peggio da dirle. L'insulto è Renzi, tanti punti esclamativi. No, mi pare che ci siano due insulti politicamente rilevanti. Il primo è quello che dice che io sarei il dirigente del PD. Io non ho deciso niente, la mia linea era completamente diversa da quella che è passata. Io sono andato sotto il gruppo, sono andato in dissenso in aula e ho spiegato che votavo solo per non, come dire, strumentalizzare e far saltare in aria il PD, no, a 2 settimane dal voto delle primarie. Quindi non sono io che decido, ha deciso Cuperlo con i suoi parlamentari, questo dovrebbe essere chiaro, perché altrimenti sembriamo tutti con la stessa responsabilità rispetto a questa scelta. L'altra cosa che mi viene indicata con molta forza è il fatto che io sarei dovuto uscire dal PD, che è però esattamente il motivo per cui non ho fatto quel gesto che anche lei mi chiedeva, insomma, rispetto alla quale mi sollecitava. Quindi ricordo, mi perdoni, Pippo Civati, che oggi Pippo Civati ha proprio invitato con un hashtag insulta Civati su Twitter, appunto, a insultarlo, e sono arrivati un po', per fortuna, garbati, devo dire, tutti. Spesso è molto più efficace un insulto di questo tipo che non. Prego. Sì, no, questa cosa del vittimismo, francamente, dal mio tono si capisce che io sono molto convinto, molto orgoglioso delle cose in cui credo, insomma, che penso, e anche molto convinto della figuraccia che abbiamo fatto ieri. È chiaro che non è facilissimo da spiegare come funziona un gruppo, come funziona una mozione, quando la si può presentare, quando no, capisce? Sono tutti elementi che sul voto elettronico che ormai c'è sulla rete sono impalpabili, ma in realtà sono fondamentali. A chi dice, credo che Josefa Idem non sia mai stata citata tanto come in questi giorni, no? Come esempio, come modello di importazione tedesca, l'unica che si è dimessa, e forse è stato il capro espiatorio ideale per far vedere che il governo è integerrimo, pulito, fuori quelli che non sono irreprensibili. Però questo della Cancellieri non le sembra un po' una fotocopia della questione Alfano-Kazako, si ricorda, no? No, però guardi che su questo è proprio, le ringrazio per la domanda, perché il problema... è che io ho preso l'iniziativa perché il PD prendesse una posizione per evitare questa figura che abbiamo fatto, perché la Idem è stata dimessa, diciamo così, senza tante storie. Su Alfano è andata in scena la stessa storia, Finocchiaro, D'Alema e Cuperlo dissero che si doveva dimettere, poi al Senato arrivò Franceschini e non Letta e spiegò che bisognava votare invece la fiducia al governo, non tanto ad Alfano quanto a Letta. La stessa cosa era successa con la mozione Giachetti, con gli F-35, per cui è una costante delle larghe intese. Aggiungo una cosa, che tra l'altro nel mio richiamo al gruppo di fronte al Presidente del Consiglio, io ho spiegato che questo atteggiamento è sbagliato anche dal punto di vista della costruzione dell'articolo 95, che ovviamente prevede una sfiducia selettiva di un singolo ministro, perché Letta invece ha spostato la fiducia su tutto il governo, mentre in Italia esiste la possibilità di sfiduciare un unico ministro. Questo è un ricatto però, e io l'ho denunciato come tale, perché non stavamo discutendo più il caso Cancellieri, per cui per me rimaneva il caso Cancellieri, per tutti gli altri no, e anche questa è una forzatura. Civati, risponde velocissimamente per favore a questo messaggio sulla pagina di Effetto Notte. Maria Chiara dice: d'accordo, non bella figura, ma ci rendiamo conto che ciò che si imputa alla Cancellieri è appena una millesima parte di ciò che si imputa a Berlusconi, per alcune delle quali è già stato condannato. Forse abbiamo perso il senso delle proporzioni. Proprio così velocissimamente, cosa direbbe? Beh no, Berlusconi è già decaduto, io sono durissimo su quello. Chi è stato condannato in terzo grado di giudizio si fa da parte, però non è che siccome c'è Berlusconi, che peraltro è il nostro alleato ancora, per dire che questo aggrava la situazione, non la rende più leggera. Lucio da Vigevano scrive: fatemi capire, prima del voto di fiducia fuochi e fiamme per tenere la ministra, dopo un secondo fuochi e fiamme invitando la stessa a dare le dimissioni, non mi sembra serio. E poi invece Franco scrive: Civati, il PD non ti merita, lascia questo partito ambiguo e crea un partito alternativo di sinistra con Vendola, che Vendola in questo momento non è proprio, diciamo, in acque tranquillissime, comunque insomma vuole fare un nuovo partito, non mi sembra di capirlo questo. No, ma poi io mi sono candidato a cambiare il PD, a fargli assumere una posizione diversa, ho fatto vedere che si può fare una battaglia politica, che si può perdere, ma le ragioni erano proprio quelle di evitare l'andirivieni classico del PD, per cui prima del voto sono tutti perché si rimette la Cancellieri, poi arriva il richiamo all'ordine, tutti cambiano idea, poi quando hanno fatto l'errore, come dire, in qualche modo si mortificano e si smentiscono. Lei oggi ha lanciato la sfida, Civati, ha detto l'8, cioè l'8 dicembre quando si fa le primarie aperte, vinco io, è sicuro di questo? Ma sì che vinco, ma è ovvio, per tutti i motivi che stiamo raccontando, perché c'è bisogno di sinistra, perché c'è un risultato sorprendente che è stato, come dire, ridimensionato dalla vita dei circoli che hanno equilibri, sa? Con Cooper e Renzi sono tanti parlamentari, quasi tutti i segretari delle federazioni. Mi dica solo una cosa, se diventa segretario, come lei sostiene, la prima cosa che fa, e poi dopo ci salutiamo. La prima cosa che faccio è portare la tessera del PD il 2014 a Romano Prodi. Ah. Per scusarmi e ricominciare da lì. Insomma, quello è stato un altro psicodramma, chissà Prodi come la prenderebbe. Comunque, penso che abbia apprezzato. Ci vuole tutta la mattina di quel primo giorno. Beh, un'altra volta ce lo riraccontiamo. Grazie Pippo Civati, grazie. Grazie a voi. E buona fortuna e buona continuazione. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. C'è sempre la pagina Facebook per voi, per i vostri commenti. Sono arrivati vari messaggi su Civati che abbiamo avuto poco fa. Effetto Notte trattino Roberta Giordano. Però adesso ci sono altre storie da raccontare. Per esempio quella di un imprenditore toscano, Alberto Rocchi, che ha fatto una cosa particolare. Stavamo parlando proprio prima con Dino Pesole del Sole 24 Ore del Limo. Buonasera Alberto Rocchi. Buonasera, buonasera. Grazie. Lei è imprenditore di Cascina, vicinissima a Pisa, e che cosa ha fatto per pagare, per evitare di pagare l'IMU, visto che dice che non è in situazione economica particolarmente favorevole? Abbiamo deciso quest'anno con rammarico di smontare un capannone che avevamo qui vicino a Cascina, perché non ce la facciamo più a pagare l'IMU. 5 anni che affitto, varie ditte hanno affittato, fallimenti eccetera, insomma qui a Pisa è un po' una tragedia sull'industria, il 70% dei capannoni sono sfitti. Quindi lei aveva un prefabbricato, un prefabbricato di sua proprietà, sì, questo capannone? Mm. Sì, sì, un capannone prefabbricato, il lastre in cemento armato, smontabile ovviamente come tanti capannoni. Abbiamo 400.000 euro di tasse da pagare arretrate, perché la cava non funziona, le case non si vendono, i lavori pubblici gli enti non li pagano, quindi Equitalia ovviamente stava per mettere l'ipoteca, quindi quanto pagava di IMU su questo capannone? 50.000 euro l'anno. 50.000 euro l'anno, è enorme. Sì, un capannone grande, 10.000 metri. Sì. Mm. Vabbè, quando l'affittavamo 50.000 euro in 2 mesi si pagavano. Però, Dice, è rimasto sfitto per tanto tempo. Per tanto tempo, perché non c'è più nessuna ditta che vuole affittare il capannone. Quanto le è costato smontarlo? Se l'è smontato lei con qualcuno che l'ha... Sì, l'ho smontato con i miei mezzi, mi è costato 15.000 euro. Potrebbe, caspita, parecchio, diciamo. Potrebbe essere questa un'idea per qualcun altro che si trovasse. Lei è un no, caso. Non sono, lo so che non sono l'unico, magari tanta gente non lo pubblicizza. Io non ho problemi a raccontare la storia, perché io ho avuto una famiglia con di costruttori, costruivamo, vendevamo circa 30 case l'anno, facevamo appalti pubblici, avevamo cave. Oggi è tutta una tragedia, da 60 operai siamo ridotti in 5. Insomma, il suo caso è emblematico, questo dalla misura della situazione in cui ci si trova a dover addirittura con le proprie mani smontarsi un capannone per evitare almeno di pagare l'IMU. Alberto Rocchi, io le auguro che le cose possano continuare meglio, anche se la situazione è un po' generalmente quella che ma è. Ma se non c'è una politica che dà fiato all'industria edile, Italia finita, non credo, era un settore trainante. Ed è in grave crisi, questo lo sappiamo. Io per 20 anni ho venduto 20 case l'anno, ora non si vende più niente. Cioè da 20 a zero, non è, cioè il fatturato meno 90%. Cioè. No, ma questo è chiaro, l'immobilità degli immobili è ormai è chiara a tutti. Alberto Rocchi, io la ringrazio e spero che le cose per lei e per tutti possano andare meglio il prima possibile. Grazie. Speriamo. Adesso invece voglio parlare con Anna Maria Fellegara. Buonasera. Buonasera. Che è vicepresidente di Intervita Onlus. Intervita che ha realizzato, ha curato la prima indagine nazionale, pensate, sui costi sociali della violenza sulle donne. Abbiamo sempre parlato giustamente dei costi umani soprattutto, e poi psicologici e sociali. Una donna ogni due giorni, il femminicidio in Italia che è diventata una strage silenziosa di cui da un po' si comincia a parlare. Però questa è la prima indagine nazionale anche proprio sui costi sociali. Si parla addirittura di 16,7 miliardi di euro l'anno, questo? Sì, esattamente, è un po' incredibile, ma la nostra ricerca dice questo. È come quasi un metà finanziario, insomma, una legge di stabilità. Sì, esatto, è più o meno esattamente quello che costa l'investimento in una finanziaria, ma potremmo anche dire il triplo del costo degli incidenti stradali all'anno in Pensate, Italia. Pensate, una cosa terribile, il triplo dei costi degli incidenti stradali. Questo è un lavoro scientifico che ha visto impegnati un pool di ricercatori di diversi atenei italiani ed è stato valutato, per dirvi la concretezza e la serietà di questo studio, valutato da un comitato scientifico di cui fanno parte i rappresentanti dell'ISTA, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che dell'Università Bocconi, stata presentata oggi a Roma con il titolo Quanto costa il silenzio? Sì, è una ricerca che nasce per colmare un vuoto che c'era incredibile nel nostro paese di conoscenza su questa informazione specifica. Non sappiamo, abbiamo sentito diciamo parlare tanto di questo argomento, però dati davvero affidabili, oggettivi, su cui costruire una possibile ipotesi di intervento non ce n'erano, e quindi a noi è venuto in mente che questo potesse essere un filone importante su cui agire. A volte, dottoressa Fellegara, no, si dice anche per la salute gli incidenti stradali, egoisticamente qualcuno dice non capita a me, chi se ne importa, però poi diventa un costo per tutta la collettività, se proprio si vuole almeno andare a toccare la questione delle tasche, no? Assolutamente sì, perché se lei considera che in pratica la cifra impressionante che sono questi quasi 17 miliardi, esatto, ma di questa cifra diciamo noi potremmo dividerla in due grandi quote. Una che è circa 2 miliardi e 4 sono proprio costi diretti, dove noi abbiamo considerato, per dire, i costi sanitari, i costi per la consulenza psicologica, i costi per i farmaci, i costi per l'intervento dell'ordine pubblico, i costi giudiziari, i costi per le spese legali. Allora 2 miliardi e 4 sono questo, ma poi per raggiungere questa cifra incredibile che veramente a noi ha fatto l'effetto quando ci siamo arrivati in fondo di un pugno nello stomaco, abbiamo quantificato il danno, cioè noi abbiamo considerato se noi avessimo trattato gli atti di violenza agita sulle donne nel loro diverso grado di gravità e avessimo trattato questi danni con un criterio di risarcimento simile a quello che si usa appunto per gli incidenti stradali, avremmo maturato 14 miliardi di danni, di risarcimenti, danni dovuti alle donne per questo. Quindi questa cifra è complessiva e contiene questi due fenomeni, ma sicuramente 2 miliardi e 4 sono i costi, che al di là del costo che le persone, che le donne subiscono, che quello è il costo della umiliazione, della sofferenza e della violenza, che è evidentemente diciamo inestimabile, no? Certo. Cioè, il dolore umano, il dolore delle persone non ha valore. E in aggiunta, ci sono questi 17 miliardi l'anno, esatto, tra servizi, esatto, sociali, psicologi, avvocati, eccetera. Esatto. Questo allora può dare ulteriormente la misura, insomma, dell'enormità di questo fenomeno? A noi sembra assolutamente di sì, sembra che ci sia un punto di partenza preciso. Tra l'altro, appunto, come dicevo all'inizio, in Italia non c'era questo tipo di dato, ma in altri paesi, per esempio l'esperienza non lontana da noi della Gran Bretagna, dice che invece conoscere e misurare il fenomeno è il primo punto di partenza per poter attuare dei piani di contrasto. Perché e sappiamo che sono piuttosto avanti in Gran Bretagna, anche perché li ho sentiti diverse volte. Dottoressa Anna Maria Felleghera, io intanto la ringrazio, ci sarà modo purtroppo di riparlare di questi argomenti. Grazie e buona serata. Buona serata. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Tra poco una bella notizia, però prima vi ricordo i fatti principali della giornata, a partire dall'economia, col governo che vara un mini piano di dismissioni, punta ad incassare una dozzina di miliardi e c'è dell'incertezza sul rinvio dell'abolizione della seconda rata dell'IMU, ma Letta assicura l'impegno con le famiglie sarà mantenuto. Sardegna, l'isola ancora sotto la pioggia, 9 comuni al momento restano senza acqua. Il vertice di Varsavia, clamorosa rottura alla conferenza sul clima in corso in Polonia, e per l'Europa il futuro si annuncia segnato dai cambiamenti climatici. Il processo Ruby, giudici nelle motivazioni scrivono: Berlusconi, regista del Bunga Bunga, sapeva che era minorenne. È stato scarcerato in Russia l'attivista di Greenpeace e ne parleremo tra pochissimo. E poi è una notizia che arriva detto: adesso Samsung deve pagare ad Apple 290 milioni di dollari. È il verdetto raggiunto dalla giuria nell'ambito del processo fra i due colossi, Samsung e Apple della tecnologia, per la violazione di brevetti. Saluto Raffaella Ruggero. Sì, buonasera. Buonasera, finalmente tra tante cose ci può dare una buona notizia. È stato liberato suo figlio Christian D'Alessandro, l'attivista di Greenpeace detenuto in Russia insieme ad altri 29 attivisti dell'organizzazione non governativa. Quando torna? Stiamo parlando di una libertà su cauzione, quindi non c'è al momento nessuna notizia di un rientro a casa. Per noi è già tanto vederlo fuori da quelle sbarre nelle quali lui non si ritrova proprio. Ieri durante l'udienza ha detto: non sono un mostro, non mi tenete in gabbia. Quindi vederlo all'aria aperta anche da lontano è già tanto per noi. L'ha sollevata, insomma, è la vicenda, sì, questa dei 30 attivisti dell'associazione Greenpeace, dicevo, incarcerati per il blitz contro una piattaforma petrolifera Artica di Gazprom. Tra l'altro proprio oggi Putin ha detto: fanno, per carità, difendono degli ideali alti ma con metodi sbagliati. Si è sbilanciato oggi Putin, era particolarmente magnanimo, mi è sembrato. Sì, mi è stato detto da alcuni giornalisti di questa dichiarazione: noi vogliamo essere ottimisti e la vediamo come un avvicinamento, riconoscere i giusti obiettivi di Greenpeace è già un passo avanti. Suo figlio ha detto, suo figlio ha detto: lo rifarei, la prima cosa che ha detto oggi. Lei è contenta sì, di questa dichiarazione? Io l'ho sentita questa dichiarazione, ma io la vedo da un mio punto di vista, che credo che sia quello di Christian e degli attivisti. Loro sono ancora convinti della bontà della loro azione, quindi perché rinnegare un'azione nella quale non vedono di aver fatto niente di male? Il reato non c'è e quindi è giusto poter ripetere una manifestazione che non ha niente di violento. La vedo convintissima e in sostegno totale di suo figlio. Senta, questa cauzione ho letto di 45 mila euro da pagare per Christian. Sì, chi chi la paga? È stata, è stata pagata dall'associazione, è stata pagata da Greenpeace, che si è accollata sempre dal primo momento tutte le spese per i ragazzi, ha provveduto a un gruppo di sostegno sul posto per alimenti, vestiario, l'assistenza legale. E quindi anche questo, perché si ritiene responsabile della salute psichica e fisica dei suoi attivisti. Non è questa cauzione un onere dello Stato italiano. Comunque, quindi non è un ecco, molti l'hanno pensato, no? Chi paga sono i contribuenti, lo Stato italiano, lui dice che lo rifarà, sì, quindi potrebbe... Ho sentito però questo, lei, sì. Lei insomma... spazza via ogni dubbio su questo argomento, quindi è stata Greenpeace. No, assolutamente, è stata Greenpeace, anche se noi come famiglia avremmo fatto qualunque sacrificio, ma non è stato necessario, non è stato per noi e non lo sarà per lo Stato italiano. Problema di microfoni a quanto pare qui in studio. La ringrazio Raffaella Ruggero. Quando ci sarà definitivamente la buona notizia, poi magari ci risentiamo quando finalmente sarà lì a casa, va bene? Va bene, grazie a voi. Grazie. Io volevo ringraziare tutti, ecco, approfitto del mezzo proprio sinteticamente, per ringraziare gli italiani che ci sono stati vicini firmando la petizione, il console, le autorità, il sindaco De Magistris, tutti quelli che ci sono stati vicini e ci hanno fatto sentire meno soli in un momento così grave per Benissimo. La nostra famiglia. Grazie Raffaella grazie. Ruggero, grazie, buonanotte, a presto. Buonanotte. E c'è venuto a trovarmi, quel rumore che sentivate, insomma, a volte con i microfoni, il nostro Armando Massarenti. Ciao Armando. Buonasera, ciao. Che è il direttore, il responsabile della Domenica, il supplemento culturale del Sole 24 Ore, Domenica o il Domenicale, insomma, come conosciuto, viene fresco di corsa, direi, dagli Stati Generali della Cultura del Sole 24 Ore, che ci sono stati oggi qui nel Palazzo del Sole, del Gruppo 24 Ore, e si è parlato soprattutto, si è partiti da questi Stati Generali, questa seconda edizione, dall'articolo 9 della Costituzione. In questi due minuti che abbiamo, Armando, cosa ci l'articolo 9 è quello che dice che la Repubblica tutela il nostro patrimonio culturale e la ricerca scientifica, ma la cosa bella di oggi è stato sentire dire dal presidente Squinzi, dal presidente di Confindustria, dal presidente del Consiglio Enrico Letta, dal direttore del Sole 24 Ore e da me stesso medesimo quanto è importante la cultura in questo paese se vogliamo riprendere a crescere, e soprattutto in un progetto che veda appunto la conoscenza e la capacità di tutelare, di valorizzare il nostro patrimonio per ricreare un circolo virtuoso, insomma, che ricrei occupazione, ma che ricrei anche crescita economica. Anche se pochi ci credono a livello generale, però no, è importante che tutti dicono di crederci, ma poi non fanno abbastanza. Invece oggi abbiamo visto molta concretezza. Io ho detto un po' pro domo mia che la cosa più concreta, una cosa sicuramente concreta, intanto è che un giornale come il Sole 24 Ore ha un supplemento culturale, che non è per niente scontato che un giornale economico finanziario abbia un supplemento culturale e che ci creda, così come appunto ci crediamo tutti, il direttore e l'amministrazione legale, eccetera eccetera. E poi c'è stato un intervento di una grande scienziata, senatrice a vita Elena Cattaneo, che ha fatto veramente un discorso meraviglioso su che cos'è la cultura e su cos'è la scienza e come questa cultura e questa scienza ci possono far rinascere sia come paese in termini economici sia come paese civile. Vedremo poi negli atti concreti, è questo che vogliamo vedere. Oggi è stato questo grande evento, grazie ad Armando Massarenti. Grazie, a presto, ciao. Buona serata. Ciao Armando. Noi ci sentiamo tra pochi istanti, vi ricordo i fatti principali.